sii semplicemente sincera. So sei a verdadeira. Non ho bisogno che tu sia perfetto o che finga di essere qualcosa che non sei. Voglio solo qualcuno con un'anima intera che mi ami con fede. Non voglio sorrisi forzati né promesse al vento. Voglio verità nei tuoi passi e pace nei tuoi sentimenti. Non devi essere perfetto, devi solo essere te stesso, i tuoi errori e le tue verità, con il coraggio di vivere. Non devi promettermi il mondo, non nascondermi il tuo cuore, preferisco un amore e imperfetto che vivere nell'illusione. La bellezza passa e il tempo vola, ma ciò che è reale rimane. E quando l'anima buona, l'amore sboccia. Non mi aspetto una favola, voglio solo lealtà e calore. Non voglio maschere a una farsa, voglio arrendersi da un amore. Non devi essere perfetto, devi solo essere, essere tu, con i tuoi errori e le tue verità, con il coraggio di vivere. Non hai bisogno di promettermi il mondo, solo non nascondermelo il cuore. Preferisco un amore è imperfetto che vivere nell'illusione. Sa intenzione di mentire e non restare nemmeno, sa intenzione di ingannare e non venire nemmeno, ma sa intenzione di essere sincero. Il mio mondo vale la pena per te. Non devi essere perfetto, sii solo fedele a me, con amore, rispetto e presenza. Sei già tutto ciò di cui ho bisogno.